Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bari, 30 novembre 2001. La mamma dei fratellini di Gravina va in procura e chiede la riapertura delle indagini sulla morte dei figli. Buongiorno dottore, e grazie assai se mi avete ricevuta con tutto quello che tenete da fare. Se permettete vi voglio fare una carezza, per quanto siete buono, e mi dovete scusare se sono arrivata fin qui. Giù non mi volevano neanche far passare, siete tanto occupato dicono, ma io sono una donna disperata e ho capito che solo voi mi potete aiutare, perché a quei bambini miei gli dobbiamo restituire la pace. No, vi prego, non dite pure voi che sono pazza, o forse sì, non lo so, magari lo sono davvero. Non lo so più, non so più niente, perché quando una madre uccidono i figli uccidono tutto il resto: il cuore, il sorriso, il cervello, i sogni. Resta solo la speranza, e io per quello sto qua. Dottor, a Napoli dicono che i bambini sono piazze core, ma qui stiamo lontani assai, stiamo in Puglia, stiamo, e non sempre le cose vanno così, e le creature certe volte le buttano nei pozzi scuri e poi le lasciano morire. E vi pare possibile che dopo 5 anni della tragedia ancora non esista un colpevole? Dottor, per piacere, voi lo dovete trovare, me lo dovete promettere, perché quei figli miei non riescono a trovare pace da nessuna parte, nemmeno nella casa di cristallo dove li ha messi il padre, dove mi viene negato di portare un fiore, di inginocchiarmi per dire una preghiera. A me, dottore, che di quei bambini sono la mamma. E invece quelle povere anime di Dio non riescono a dormire nemmeno lì, e tutte le notti mi vengono a cercare. Vogliono stare con me, dicono, e mi stringono, mi abbracciano. Non ci lasciare più, mammina, ripetono, perché il padre non c'ha colpa, dite voi, ed è vero. Ma se la legge non me li avesse portati via, i figli miei sarebbero ancora vivi. Per questo sto qui, dottor. Perché la legge tiene le colpe sue in questa storia, e per questo voi mi dovete aiutare, me lo dovete promettere, mi dovete dire chi è stato e restituire una speranza, perché c'è un dubbio che mi uccide tutti i giorni, ma riguarda altri bambini, e io questa cosa qui non la voglio neppure pensare. Gabriella Genisi, in libreria con Giallo Ciliegia, editore Sonzogno. 221 pagine, 16 euro. Per riascoltare le storiacce d'autore, www.radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Ciao a tutti, a domenica prossima.